tenero mi darne ti e a te vidi. Dite che io vado e sto filando a spezza le poverine. Tua facetta mostrami che io va baciare per te. La tua boccuccia, amor mi cruccia e mi fa tormentare, mi fa tormentare. Color mia, chiudimi il finestrino e a te. A me vidi